in primo piano. Buongiorno, buon giovedì da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore, che si concentra sul dato economico molto positivo di ieri, e sono i dati che riguardano la produzione industriale di giugno. È cresciuta del 5,3%, e a spingere il dato generale sono stati soprattutto gli aumenti nell'auto, che hanno sfiorato il 20%, e nella farmaceutica 18,5%. Contemporaneamente sono aumentati anche i consumi, segno che appunto non è soltanto è tutta l'economia che dà dei segnali sempre più forti di ripresa. Il reportage richiamato in prima pagina è di Paolo Bricco, che è stato per un periodo a Detroit in Michigan, storicamente la capitale dell'auto americana, che quando poi l'auto americana è entrata in crisi per molte ragioni, la concorrenza asiatica, ma la crisi stessa del modello dei grandi marchi americani, la città è a sua volta, e un po' come Torino era dipendente dalla Fiat, Detroit era dipendente dai giganti dell'auto, è entrata in profonda crisi e si è trovato però il modo, grazie alla collaborazione anche tra il sindaco e il governatore dello stato del Michigan, di trovare altri, continuare a investire sull'auto, perché comunque, come abbiamo visto anche dai dati italiani, il settore dell'auto è tutt'altro che defunto, con anche tutti gli sviluppi possibili nel segmento delle auto elettriche, o in tutto quello delle flotte aziendali e anche del car sharing, che comunque spinge i parchi auto. In ogni caso, quindi, senza dimenticare il settore dell'auto, Detroit ha puntato anche su altri settori dell'economia. Paolo Bricco appunto inizia questo reportage, credo che già oggi preparerà una seconda puntata, e lo trovate poi a pagina 9. A proposito invece di Italia, di competizione, quella che può essere definita competizione fiscale, sapete che una delle recenti misure fiscali, novità fiscali, è quella di avere una sorta di flat tax o tassa a forfè per chi ha redditi superiori ai 100.000 euro e viene dall'estero. Questa tassa a forfè comincia, stando alla ricognizione che gli esperti di norme e tributi hanno fatto nei grandi studi fiscali, comincia a dare i primi risultati. Ci sono molte richieste, soprattutto da alcune aree del mondo, tra le quali la Gran Bretagna e in generale tutto il Regno Unito, per gli effetti della Brexit. La tassa a forfè italiana affascina i super ricchi. E vi segnalo sulla crisi tra Stati Uniti e Corea del Nord, in cui si è inserita la Cina un po' come mediatore, come pompiere potremmo dire, il commento, l'editoriale di Attilio Geroni: il tiranno, l'incendiario e il mistero cinese. E come forse avrete risentito anche voi, le parole di Trump fanno effettivamente molta paura, perché quando dice reagiremo in un modo che il mondo non ha mai visto, come possiamo pensare? Nel senso che forse il peggio che abbiamo visto e che resta ancora nell'immaginario di tutti sono i due funghi atomici di Hiroshima e Nagasaki. Sappiamo che quelle bombe in confronto a quelle di cui si dispone oggi sono niente, e quindi effettivamente questo poi fa paura nei toni, fa paura nella sostanza, tanto che per esempio dopo un rally che durava da mesi, con il famoso superamento della soglia dei 22.000 punti alla borsa di New York, ieri c'è stato un vero e proprio effetto Nord Corea: calano le borse, rialzo dei beni rifugio. Ci lasciamo un attimo per una prima pausa per il traffico. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta in primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Dopo aver visto la prima pagina del Sole 24 Ore, passiamo al Corriere della Sera, che come molti giornali mette in prima pagina quello che avete sentito anche nel GR: la sparatoria che c'è stata ieri in Puglia. Il Corriere della Sera la definisce Far West in Puglia, e Antonio Polito, vice direttore del Corriere della Sera, firma l'editoriale: una guerra dimenticata. È un po' dimenticata nel senso che non si parla tanto di questa mafia che c'è in Puglia, che invece, come appunto diceva Daniele Biacchessi nella controcopertina, andrebbe a tutti gli effetti considerata una quinta organizzazione di mafiosa, appunto, insieme a quelle che conosciamo e di cui si parla di più. Il titolo è un titolo dedicato anche ai dati, anche questi li avete sentiti nel GR, sugli sbarchi che si sono dimezzati a luglio. Adesso Del Rio, Graziano Del Rio, non si sa bene se come reazione a questi dati che danno ragione alla linea Minniti, ieri ha detto in realtà c'è una intesa con Marco Minniti il codice di condotta per le ONG è giusto e la strada intrapresa da Minniti è altrettanto giusta. La fotonotizia è dedicata all'attacco terroristico che c'è stato ieri a Parigi, che ha fatto temere, e adesso poi vedremo se appunto innanzitutto le condizioni dei feriti, che sono 6, e poi purtroppo con questo attentato è tornata la paura in Francia, e tra l'altro a pochi giorni dai primi dati che cominciavano a essere positivi, indicavano un ritorno per esempio dei turisti a Parigi e in Francia, e che aveva naturalmente Parigi aveva molto sofferto per le paure che scatenate dagli attentati del 2016 e del 2017. La situazione sembrava normalizzarsi tra virgolette, adesso questo attentato di ieri speriamo che sia un episodio isolatissimo. In questo caso anche sul Corriere della Sera c'è un editoriale di Franco Venturini di geopolitica, si rivolge però non alla crisi tra Stati Uniti e Corea del Nord, ma torna sulla Turchia, effettivamente una crisi, un paese attraversato da tensioni enormi la sempre più forte presa di morsa di Erdogan sul governo del paese. Molti lamentano la difficoltà in cui versano tutte le opposizioni in Turchia, però di Turchia di fatto, di nuovo, in mancanza di un fatto di cronaca forte, non si parla più. Ci torna Franco Venturini e in un editoriale intitolato L'Europa e il coltello di Erdogan. La Repubblica ha il titolo principale riferito a un autoriferito, potremmo dire, perché questo è proprio il titolo principale gigantesco al centro della pagina. Niente soccorsi, il papà muore, troppe falle nel nuovo 112. È stata infatti aperta un'inchiesta dopo la denuncia di una signora che nel Lazio appunto ha avuto questa esperienza terribile di dover chiamare il 112 e non avere risposte mentre il padre stava molto male e poi è morto. Lo spunto di questo fatto di cronaca per Repubblica è anche quello per un'inchiesta alle pagine 2 e 3 sul nuovo 112, questo centralino, questo numero unico che dovrebbe in realtà semplificare la richiesta dei soccorsi medici, ma ci sono parecchi problemi, specie naturalmente in questo periodo, come abbiamo visto ieri. Carenza di organici e probabilmente anche disorganizzazione dei turni delle ferie, e a Roma per esempio abbiamo visto ieri il fatto di cronaca di un ospedale dove mancavano primario, viceprimario e al pronto soccorso si occupavano di tutto infermieri e guardie. Un articolo curioso lo trovate un po' dappertutto, perché anche qui c'è un fatto di cronaca: il sindaco di Viareggio che è entrato in un ristorante in Bermuda, in realtà al club nautico che un po' tutti i club nautici ha delle regole un po' forse da secolo scorso, da gentleman, quindi anche sul modo in cui bisogna vestirsi per entrare in questi circoli, e gli hanno detto cortesemente o lei si mette qualcosa di diverso da quei Bermuda oppure prego si accomodi. E da qui lui, devo dire che mi sembra che l'abbia presa anche abbastanza bene, però questo fatto di cronaca offre lo spunto oggi, un argomento molto estivo sicuramente in tutti i sensi, per commentare questa notizia. Allora, Marco Belpoliti, che è uno scrittore attentissimo a tutti questi segni della modernità, un osservatore proprio di tutto, e firma un bel racconto che inizia in prima pagina: perché l'uomo non può mostrare le gambe d'estate. La Stampa invece apre su un'inchiesta di quelle che fa La Stampa e poi mette a pagina 2 e 3. Anche in questo caso gli spunti di cronaca non mancano, però si tratta di una vera e propria inchiesta sulla sanità in agosto. Un letto su 3 chiuso per ferie. La fotonotizia però è dedicata alla protesta delle donne che lavorano a Google. In realtà la protesta, benché il quartier generale di Google, come sappiamo, sia in California, nella Silicon Valley, la protesta è andata in scena ieri a New York. Tutto nasce da quel post di uno studio fatto su un forum di Google da un dipendente di Google, uomo, un ingegnere. In questo studio molto controverso si dice che ci sono delle differenze innegabili tra gli uomini e le donne, che per questo gli uomini sono adatti a certi lavori, le donne meno e viceversa. Questo ingegnere è stato licenziato però la questione ha aperto la discussione su esiste in un'azienda che si dice così innovativa e così proiettata nel futuro come Google, esiste una questione di discriminazione tra uomini e donne? La risposta di chi ha manifestato pare essere sì, e comunque se ne parla ancora oggi, appunto, su tutti i giornali. Il Messaggero titola sulla questione degli sbarchi dimezzati e anche sulla stretta sui permessi, della quale mi permetto di dire il Sole 24 Ore ha parlato 2 giorni fa. Sono comunque dati del Viminale, sono state, appunto, dai quali risulta che vengono respinte 2 richieste di asilo su 3, e sono anche in corso di velocizzazione le procedure, perché poi non è tanto il fatto che la richiesta venga respinta, ma con che tempi. Sulla questione prettamente romana dell'ANAC, la società che si occupa del trasporto pubblico a Roma, abbiamo visto nei giorni scorsi come c'è un'inchiesta aperta sollecitata dal sindaco Virginia Raggi sull'INAIL, che si occupa di tutti i contratti e gli appalti per l'ANAC, e c'è un'altra denuncia: sono state già trovate irregolarità in contratti per forniture informatiche e sanitarie, pensate, per 44 milioni. L'Avvenire parla di Africa, ma accendendo i riflettori su un'altra di quelle emergenze dimenticate, che sono gli attentati contro i cristiani in Africa. Per esempio, oggi scrive l'Avvenire, l'ultimo fatto di cronaca, sono 50 donne sgozzate, donne e bambini, a Gambo. I ribelli a colpire sono stati i ribelli islamisti di questo gruppo che si chiama Seleka. L'ONU ha usato la parola genocidio, anche il Papa naturalmente ha espresso tutto il suo dolore tutte le volte che ci sono queste stragi di cristiani, che sono purtroppo molto frequenti in Africa. Ci sono gli appelli del Papa che anche qui purtroppo cadono nel vuoto, visto che continuano a succedere. 2 fotonotizie, una dedicata all'industria, al dato economico: l'industria torna a produrre. E poi l'altra invece, come sempre, lo ripeto, l'Avvenire ha, secondo me, questo grande pregio che non lascia cadere nel vuoto. Le questioni che si vede sono prioritarie per i giornalisti dell'Avvenire, il suo direttore, che poi è l'Avvenire rappresenta la CEI, quindi i Vescovi Italiani. In questo caso parliamo delle questioni della famiglia, delle agevolazioni che ci possono essere per le famiglie italiane. Sono 4 giorni che l'Avvenire parla molto di questo tema, e ora si torna a queste richieste che vengono fatte al governo per la famiglia, partiti in pressing, e poi a pagina 6 si riepiloga tutte le risposte che sono già arrivate dai vari partiti e quelle che ancora si attendono. Ecco qua che Libero titola proprio sulla questione che dicevamo di Google: uomini e donne, le diversità. Questo studio, tra l'altro, pubblicato da questo ingegnere che poi ha perso il posto di lavoro per essersi comportato, diciamo, con un po' di leggerezza, forse l'ha anche presentato prestando il fianco alle critiche e alle accuse di essere maschilista o di voler discriminare le donne, o di pensare che le donne vadano giustamente discriminate. E Fausto Carioti si è letto questo documento di 10 pagine. Il titolo è Uomini e donne, 2 punti, le diversità. Lo studio sulle differenze dei cervelli dei due sessi, che è costato il posto all'ingegnere di Google accusato di misoginia. L'abbiamo letto, non contiene nulla di politicamente scorretto, ma sostiene che per certi lavori è meglio lui e per altri lei. Secolo XIX, ve lo segnalo perché, visto che abbiamo parlato tanto di sanità, c'è una misura in Liguria interessante, per ora appunto che io sappia solo in Liguria. Sappiamo che quando si torna a scuola in settembre scatterà anche questa misura, e vedremo come le regioni sapranno affrontarla, le regioni e i comuni, della vaccinazione obbligatoria, condizio sine qua non per iscrivere i propri figli alle scuole. In Liguria si è pensato organizzare dei certificati a domicilio sui vaccini. Sono in arrivo 50.000 lettere, per iscriversi ai nidi e alle materne basterà la prenotazione presso una ASL. Lo trovo, insomma, se tutto andrà per il verso giusto, mi sembra un'iniziativa, un buon modo di usare il denaro pubblico, i fondi per la sanità, perché se questa legge sul vaccini, io l'ho sempre detto, la trovo, questo provvedimento sui vaccini lo trovo corretto, però visto che si è alzato il numero delle vaccinazioni richieste obbligatorie, è anche giusto mettere in condizioni le famiglie di vaccinare i propri figli nel modo più semplice possibile. Visto che siamo a Genova e abbiamo parlato tanto di Fincantieri nei giorni scorsi, Fincantieri che ha fatto l'offerta, sapete, per i cantieri francesi prima che Macron fosse eletto presidente. Macron ha poi deciso di nazionalizzare i cantieri per evitare che il controllo passasse a Fincantieri, cioè a un'azienda italiana. Ha proposto che la quota di Fincantieri sia solo del 50%, quindi di fatto non di controllo, mentre i precedenti proprietari coreani avevano più del 60%. Per ora la trattativa è in stallo, se ne riparlerà a settembre. Intanto Fincantieri si muove in Italia. Fincantieri punta alle aree Piaggio, racconta il secolo XIX, c'è un piano per realizzare a Sestri Ponente una cittadella dell'indotto. La verità, chi dà ai migranti i soldi per gli scafisti? Questo è un articolo interessante che offre molti spunti. Io mi riprometto oggi di andare un po' a rivedere un po' questi dati, perché l'accusa che si fa è gravissima, ed è quella di Francesco Borgonovo si è molto documentato su questa questione, e l'accusa è che le banche che in particolare in Bangladesh ma anche in India si occupano di microcredito, un'invenzione praticamente di Muhammad Yunus, che ha preso il premio Nobel per essersi dedicato a questo e aver creato la Grameen Bank in Bangladesh. Ci sono molte ombre adesso su questo sistema del microcredito, e addirittura ci sarebbero appunto dei prestiti per chi vuole emigrare. E da qui il titolo: chi dà ai migranti soldi per gli scafisti, come fa gente poverissima a pagare migliaia di euro per il viaggio, chi non cade in mano al racket ricorre al prestito umanitario, un sistema premiato con il Nobel, il riferimento appunto a Mohamed Yunus, la Grameen Bank, che sta rovinando milioni di persone. Ripeto, siccome non è un editoriale ma un articolo basato su molti fatti e molti studi, io personalmente, che non li avevo mai sentiti, mi riprometto di leggerli tutti, perché sicuramente, se fosse così, un'iniziativa nata e premiata con il Nobel, nata per veramente combattere la povertà, che poi si evolva in questo modo, sarebbe veramente triste e grave, naturalmente. Ci fermiamo un attimo per una breve pausa, ci ritroviamo subito dopo. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei giornali. Vi segnalo quella del Giorno, perché ieri ne abbiamo parlato, perché il Giorno in anteprima rispetto a tutti gli altri giornali che si dedicano alla vicenda oggi, ieri ha dato la notizia di questo pignoramento da parte di BPM ai vari beni di Gianluca Vacchi, perché Gianluca Vacchi avrebbe un debito con questa banca di 10 milioni di euro, ha rimborsato solo due rate, ne mancano ancora molti. Lui ieri ha risposto dicendo che non c'è nessunissimo problema, e quindi ora oggi tutti i giornali tornano su questa notizia, ma la maggior parte anche fa scatta una fotografia dei vari affari di Gianluca Vacchi. Il Giornale lo mette in prima pagina e calcola che il patrimonio, al di là di questi 10 milioni che deve a Banca BPM, sia di circa 200 milioni. Ma vabbè, insomma, gli appassionati di questa vicenda, ripeto, oggi la trovano su tutti i giornali. L'apertura però del giornale è indagato il prete amico della Boldrini, l'avete sentito anche nel GR, padre Mussi Zerai, che è stato anche candidato al Nobel, viene definito amico del presidente della Camera Laura Boldrini, è indagato però dalla procura di Trapani per supposti rapporti con gli scafisti, con i trafficanti di esseri umani. Vi segnalo il Foglio, Giulio Meotti. Io sorrido di me perché ho già evitato e me l'ero segnato di leggere la rubrica giornaliera di Vittorio Sgarbi sul Giorno che è dedicata a Saviano, perché non vorrei che non vorrei che sembrasse che io sia ossessionata in senso negativo da Roberto Saviano. Sicuramente non mi è piaciuto il suo articolo pubblicato da Repubblica 2 giorni fa, perché come al solito mi sembra che anziché spaccia tutto per ragionamenti così di buon senso e anche che vorrebbero magari risolvere problemi sociali gravi, e poi in realtà scatena grandi polemiche. Poi altrettanto censurabile forse è la risposta di Matteo Salvini, che ieri, 2 giorni fa, gli ha detto piccato, ha risposto piccato agli insulti di fatto di Saviano. Allo stesso Salvini gli ha risposto: se noi andiamo al governo la prima cosa che facciamo ti togliamo la scorta. Ora, per appunto per ragionare meglio su questo tema e non dare io l'impressione di avercela per qualche motivo particolare con Saviano, non è così, semplicemente contesto un po' questa sua tuttologia e questo suo sempre mettersi in cattedra su qualsiasi tema dove lui si considera un maître pensier. Oggi Giulio Meotti sul Foglio scrive, puntando anche sulla cautela con la quale bisognerebbe usare alcune parole, in particolare olocausto, il titolo dell'articolo è "Non solo Saviano, l'immigrazione e il linguaggio della menzogna che spaccia per nuova Shoah la gestione dei nostri confini". Invece Giuliano Ferrara oggi, che nei giorni scorsi anche ha parlato molto di questo umanitarismo militante che a volte usa toni veramente accesi, invece oggi si esercita scrive, ed è un pezzo molto interessante, sulle tensioni tra Stati Uniti e Corea del Nord. L'equilibrio atomico 2.0, Corea, Cina, Russia. Il mondo è fermo perché gira intorno agli archetipi della guerra e della politica di potenza. L'Europa è cambiata in meglio, l'America no. La fragilità è forte, non resta che sperare in un Pentagono lontano dai campi da golf. Il Manifesto ha in copertina una pagina di Angelino Alfano sorridente e il titolo è "Angelo e demone". È l'uomo più desiderato del momento, ago della bilancia del voto siciliano e nazionale. Sappiamo che il 5 di novembre si vota in Sicilia e sono le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana, e sono anche un test elettorale importante, visto che poi le elezioni politiche saranno poi in primavera. Ministro di Gentiloni, ma Angelino Alfano tratta con Berlusconi. È al centro dell'analisi politica del Manifesto di oggi. Grazie agli ascoltatori che stanno mandando messaggi al 349-238-6666, a chi mi chiede se sono salviniana. No, non sono salviniana, però sicuramente non mi è piaciuto quegli insulti che conteneva l'articolo di Saviano di 2 giorni fa su Repubblica, rivolti appunto a Salvini. Come sempre uno sguardo ad alcune prime pagine dei quotidiani stranieri, la Frankfurt Allgemeine, il quotidiano di Francoforte, tra l'altro così per curiosità, per chi magari è un po' appassionato di grafica dei giornali, vi invito a dare un'occhiata, la trovate su internet alla prima pagina, perché hanno questa formula sempre molto molto simile giorno dopo l'altro, ma ci deve essere un photo editor fantastico alla Frankfurt, perché la foto è sempre molto evocativa, quasi un po' da pensiero laterale. Ieri erano delle piante carnivore, ma non si parlava di piante carnivore. 2 giorni fa c'era una foca con quegli occhi che mettono sempre, che danno sempre l'impressione di un animale che ha molta paura. Naturalmente vengono, soprattutto queste foto vengono pubblicate quando ci sono le stragi dei cuccioli di foche, ma per dirvi, insomma, è sempre, ma non si parla mai dell'argomento di cui sembrerebbe voler parlare la foto, sono sempre usate un po' come evocazione di qualcos'altro. Oggi la foto è impressionante e meno, più chiaro il legame con l'argomento. È la foto presa dall'alto di un tratto di mare senza praticamente onde, solo piccole increspature, e sopra c'è un caccia, e naturalmente il riferimento è a quella che viene definita una guerra di parole tra gli Stati Uniti e la Corea del Nord. Oggi il FAZ ne parla approfonditamente. Uno si potrebbe chiedere perché non ieri, visto che il discorso di Trump risale a 2 giorni fa, perché la Frankfurt, come altri quotidiani, ha deciso tempo fa di chiudere molto presto alla sera, naturalmente per risparmiare, visto che poi molte notizie, come dimostra anche il caso di Radio 24 e di Internet, naturalmente uno le sente nelle ore successive, di dedicare invece la prima pagina ad approfondimenti. Da qui appunto l'idea che oggi finisce in prima pagina questa guerra di parole, e naturalmente il vantaggio di far passare qualche ora è che si possono fare delle riflessioni che vanno oltre la cronaca. Personalmente sono convinta che i quotidiani debbano servire soprattutto a questo. Curioso che oggi nella parte viaggi del quotidiano tedesco ci sia un lungo articolo sul Po, sulla nostra Valle del Po, e su come sia una destinazione turistica forse non così conosciuta, ma molto interessante, sia per il fatto dell'acqua, anche se quest'anno sappiamo c'è stata anche molta siccità, ma perché è una zona molto interessante. El Mundo, oggi ho guardato El Mundo anziché El País, dà alcuni dati economici sulla Spagna, con il fatto che i salari non stanno salendo, anche se la Spagna ha probabilmente agganciato la ripresa un po' prima dell'Italia. E poi c'è un approfondimento che peraltro trovate anche su altri giornali e anche sul Sole 24 Ore, in particolare su Guam. Avete sentito che la Corea del Nord ha minacciato questa isola del Pacifico, dove c'è una base aerea americana, dicendo addirittura che tra qualche giorno sarà pronto un piano di attacco specifico su Guam. Le Figaro, come potete aspettarvi, apre sull'attacco che c'è stato ieri a Parigi, e cerca anche di capire chi può essere questa persona che era alla guida dell'auto, se è un terrorista o un lupo solitario, se si muove all'interno di un'organizzazione. Quindi tutte le indagini, lo stato delle indagini, anche se sono passate solo poche ore. Poi avevamo parlato di questa legge sulla moralizzazione in politica che era all'esame del Parlamento. Le Figaro lamentava il fatto che probabilmente, e qui naturalmente una cosa che ci suonava molto familiare, il Parlamento sarebbe stato semideserto, e effettivamente non c'erano molte persone, però sono bastate per approvare questa legge. Il Washington Post invece parla di una nuova inondazione a New Orleans. Noi qui forse non ne abbiamo nemmeno sentito parlare, però sabato ha piovuto talmente tanto che New Orleans ha rivissuto l'incubo del 2005. E tra l'altro il Washington Post si concentra sul fatto che sono stati spesi 15 miliardi per la ricostruzione e per rendere, si supponeva, la città più sicura. In realtà appunto la pioggia torrenziale, è bastata la pioggia torrenziale di sabato, le foto sono impressionanti, per riportare parte di New Orleans sotto l'acqua. Andiamo nelle pagine interne. Vi dicevo, a pagina 9 del Sole 24 Ore trovate il reportage da Detroit di Paolo Bricco. Un interessante approfondimento sul tema che si sta diffondendo sempre di più in Italia, che è quello del welfare aziendale, cioè le misure che vengono introdotte direttamente dalle aziende per favorire i lavoratori, indipendentemente da quello che prescrive la legge. Il caso di oggi, ce lo racconta Cristina Casadei, è quello di Eni, che non soltanto ha molte misure per favorire la genitorialità, quindi permessi part-time per genitori, madri e padri, ma anche per chi ha dei genitori anziani. Nel nuovo protocollo dell'ENI è stata favorita l'assistenza ai genitori anziani e la novità si aggiunge agli integrativi sociosanitari già in essere. L'agenda del professionista prosegue, siamo alla puntata numero 9, la pagina di oggi è la 16 ed è dedicata ai contratti derivati e trovate come sempre tutte le indicazioni per affrontare da parte dei professionisti questa questione. Domani invece vi anticipo, anche perché c'è sempre uno specchietto alla destra della pagina che indica quali sono le uscite successive e quelle dei giorni precedenti, domani merci e magazzino. Passiamo al Corriere della Sera, perché è un altro tema, anche qui aspettiamo sempre che, non so, che per qualche motivo si ricominci a parlarne, ma è la Brexit. Ormai è passato più di un anno dal referendum che si è tenuto il 23 giugno del 2016, con il quale gli abitanti del Regno Unito hanno deciso di voler uscire dall'Unione Europea. Non si sa bene ancora come verrà fatto, continua il balletto di cifre. Settimana scorsa, domenica, era uscita un'indiscrezione, il Regno Unito sarebbe disposto a pagare 40 miliardi di sterline, poi il governo May ha smentito, insomma, davvero c'è ancora molta incertezza. E il Corriere della Sera, con Paola De Carolis, inviata a Londra, ci racconta un po' il sentiment degli agricoltori. Il titolo dell'articolo è "Salviamo dalla Brexit la campagna inglese". È una tesi che il principe Carlo ha sempre sostenuto, cioè che comunque la Brexit avrebbe ulteriormente colpito gli agricoltori, che già rispetto al 2005 le piccole fattorie nel Regno Unito sono diminuite del 30%. I fondi europei però erano molto utili, come sono per tutti i settori agricoli dei vari paesi. Uscire dal Regno Unito, uscire dall'Unione Europea, naturalmente significa rinunciare a questi fondi. E da qui un nuovo rapporto di cui ci racconta appunto Paola De Carolis, che dà ragione a Carlo, principe ereditario: con l'addio all'Unione Europea, rischi per il paesaggio e le piccole fattorie. A proposito di rischi, a pagina 23. Un racconto di Paolo Virtuani con una illustrazione bellissima di un leone. Il leone è forse il più famoso dei grandi felini. Cosa resta del leone? Safari di caccia e abiti tridotti, ne sono rimasti 25.000 esemplari e molte organizzazioni che si occupano della salvaguardia dei grandi felini avvertono bisogna agire subito. E c'è una bella mappa sulla diffusione del leone africano e del leone asiatico, che sono le due principali famiglie appunto di questo splendido grande felino. Ci lasciamo un attimo per la seconda pausa sul traffico. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e grazie a tutti gli ascoltatori che stanno mandando messaggi. Chi mi dice faccia la rassegna stampa e non giudichi Saviano e Salvino, io non giudico nessuno, però fare la rassegna stampa secondo me vuol dire anche magari ricordare e distinguere tra gli articoli che sono solo fatto di cronaca e gli articoli che invece sono veri e propri editoriali, e da qui quindi sì, nel momento in cui uno esprime un'opinione naturalmente è anche legittimo dire sono d'accordo, non sono d'accordo, o comunque parlare del fatto che in quell'articolo si sta esponendo appunto un'opinione e non un fatto, un semplice fatto. E a proposito di fatti, il Corriere della Sera, dopo che se ne è parlato con paginate e titoli in prima pagina lunedì, il Corriere della Sera adesso torna da conto della conferenza stampa che c'è stata a Milano di Sara Errani, la tennista che è stata squalificata per aver usato questo, perché è stata trovata positiva a questo farmaco, l'etrozolo. Lei si è difesa dicendo che in realtà c'è stata una contaminazione, perché il farmaco viene assunto dalla madre per curare un tumore. Una delle cose che ha detto ieri è: ho pagato un errore di mia madre, ma non perdono chi ha ironizzato sulla sua malattia. La Repubblica continua il suo viaggio all'interno delle ONG, che è una conseguenza dell'editoriale di Mario Calabresi, direttore della Repubblica di martedì, che diceva sulle ONG basta insulti, spieghiamo veramente cosa sono. E oggi si occupa della comunità di Sant'Egidio, e in particolare su quello che fa questa comunità nata a Roma nel 1968, soprattutto per le periferie delle città e in particolare per la periferia di Roma. E poi Medici Senza Frontiere, tanto contestata per non aver firmato il codice delle ONG per gli interventi nel Mar Mediterraneo, che, ma naturalmente Medici Senza Frontiere, che invece è stata fondata in Francia nel 1971, ha da sempre in atto azioni in moltissimi paesi, per esempio, ricorda questo articolo, a Mosul. Una notizia così che fa un po' venire nervoso, mani sul volante, mettetela come volete. La Repubblica, che ha fatto le pulci alle spese dei commissari dell'Unione Europea, si scopre che in 2 mesi hanno speso 500.000 euro per viaggiare. Bruxelles, che evidentemente ha riconosciuto l'enormità della cifra, ha risposto: è colpa degli aerotaxi. E vabbè. Al lettore che dice non occupiamoci di Gianluca Vacchi posso anche essere d'accordo. Io davo appunto solo conto del fatto che oggi ci sono articoli su tutti i giornali, in alcuni casi richiamati anche in prima pagina, e l'ascoltatore suggerisce occupatevi di Kenya e di altre emergenze. La Repubblica racconta il giorno dopo il voto nel Kenya, il paese purtroppo è di fatto nel caos, secondo l'opposizione ci sono stati dei brogli e soltanto ieri ci sono stati 4 morti per questi scontri. E poi un reportage di Raimondo Bultrini dall'India. L'India è, abbiamo visto ieri sulla stampa, sta attraversando una rivoluzione digitale, è un paese con un'età media molto, molto bassa, è un paese molto popoloso che sta cercando la sua via allo sviluppo, è però anche il paese delle caste, è il paese delle spose bambine e di tanti altri nodi sociali e culturali che sicuramente ostacolano il passaggio dell'India a una vera democrazia come la intendiamo noi. E ieri c'è stata questa marcia degli scienziati indiani che sostengono, lo slogan è «La religione non è tutto». A decine di migliaia nei cortei organizzati in oltre 20 città indiane, basta con l'oscurantismo, ormai viviamo in un mondo globalizzato. Invece, a proposito sempre di proteste sociali, su questioni sociali, La Stampa con Francesca Paci a pagina 13 ci racconta come sia un po' l'estate, anziché le primavere arabe, sia un po' l'estate in cui nei paesi in cui le donne sono per vari motivi discriminate anche tramite le imposizioni sul modo di vestire a cui sono sottoposte, in Afghanistan, in Turchia, in Iran e in Giordania ci sono sempre più movimenti, ci sono manifestazioni di piazza, bikini, proteste social e selfie senza chador. Sboccia la primavera delle donne ribelli, direi appunto più estate che primavera. Dall'India al Medio Oriente il mondo femminile alza la testa, adesso basta soprusi, la lotta per l'emancipazione corre su internet, così l'Occidente si accorge di noi. Fossi in tutte queste donne non mi fiderei troppo dell'Occidente, perché abbiamo visto che la nostra attenzione è così molto a intermittenza. Se invece loro cercheranno sempre di più di far valere i loro diritti, forse appunto piano piano, perché sono processi molto lenti, potranno liberarsi da tutte queste imposizioni. Ricordiamo, in Arabia Saudita le donne non possono guidare, in Turchia ci sono sempre più imposizioni da parte del governo di Erdogan sul modo di vestire, sull'obbligo di usare il chador. In Giordania c'è ancora una legge che permette il matrimonio riparatore, cioè dopo aver violentato una donna, anche minorenne, un uomo può sposarla e così evitare qualsiasi accusa. Insomma, sono tantissimi i fronti su cui ci sono margini di miglioramento, altro che il sessismo da Google per la condizione femminile. Vi segnalo, visto che siamo in estate, magari tutti abbiamo più tempo per leggere e sappiamo quanto è importante, credo lo sperimentiamo tutti andando in libreria o anche vedendo delle librerie online, non me ne vogliano chi critica duramente Amazon, anche con certe ragioni naturalmente, però le copertine si possono vedere appunto dal vivo o anche online e sono importanti. Spesso non dico che si scelga un libro sulla base della copertina, però copertine possono essere più o meno efficaci. E quindi la bella intervista di Giuseppe Culicchia, che tra l'altro è uno scrittore, al grafico Riccardo Falcinelli, che spiega come sia un vero processo creativo quello di creare la copertina giusta per il libro giusto, e che è un processo che coinvolge sia l'autore del libro sia l'editore. Per chi volesse approfondire e magari anche purtroppo arrabbiarsi la questione dell'ATAC, sul Messaggero si dà conto dell'ultimo CDA dell'ATAC, l'azienda dei trasporti di Roma, che ha fatto slittare il salvataggio, e ora si ribadisce questo problema che gli stipendi a questo punto sono a rischio, perché se non si varano delle misure di emergenza e un piano industriale che possa anche eventualmente rassicurare i creditori, perché ricordiamo l'ATAC ha un debito di 1,3 miliardi, appunto saranno a rischio gli stipendi di tutti i dipendenti. Visto che abbiamo parlato di copertine di libri, nel supplemento Agorà dell'Avvenire dedicato alla cultura ci sono due interessanti articoli. Uno è un'intervista a un linguista, Andrea Moro, docente di linguistica generale a Pavia, che spiega Babele esiste ma la argina la mente, cioè il fatto che il linguaggio umano è un unicum in natura, non ci sono altri animali parlanti, non per ragioni ambientali ma neurobiologiche. Gli idiomi impossibili il cervello non li riconosce. E a proposito di parlare o comunque esprimersi in modi diversi, magari non con le parole, c'è invece un'intervista a un neuroscienziato, sempre nella stessa pagina di Avvenire, Giorgio Vallortigara, docente di neuroscienze all'Università di Trento, che spiega anche gli animali parlano perché pensano. Dalle api alle scimmie la logica è trasversale a numerose specie, si può essere anche più intelligenti dell'uomo, conta risolvere i problemi. Questa è la visione appunto di questo neuroscienziato. A proposito di trasporti, questa la trovo una buonissima notizia. Riguarda purtroppo ancora solo Milano, ma già se succedesse solo a Milano sarebbe un passo avanti. Nel 2021 tutti i trasporti pubblici milanesi dovrebbero essere a misura di disabili. 4 fermate su 5 di tram e metro saranno accessibili a tutti. Oggi invece meno del 50% dei filobus i mezzi su rotaia, cioè i tram, può essere fruito da tutti. Negli ultimi 3 mesi però sono stati approvati 3 lotti per adeguare le tratte, e questo sarà sicuramente, ci sono alcune foto che mostrano come appunto cosa voglia dire rendere accessibile ai disabili una stazione, quindi dagli ascensori alle piccole rampe che possono far salire le carrozzelle sui vari autobus e sui tram, e direi che veramente sarebbe un passo di grande civiltà. La pagina ve la segnalo, la pagina 13, anche qui sorrido perché ogni tanto c'è qualche ascoltatore che magari mi fa qualche piccolo complimento ma poi aggiunge, però parli un po' troppo spesso di cani e gatti. C'è una foto molto divertente a pagina 13 di Libero: anche i gatti hanno paura del dittatore Maduro. Naturalmente Maduro è il presidente del Venezuela, e anche lui è al centro di accuse probabilmente giustificate di diventare appunto un dittatore, con anche queste elezioni indette domenica per l'Assemblea Costituente, che è di fatto una specie di suo Parlamento personale. In questa foto Maduro tiene in braccio un gatto che effettivamente ha l'aria terrorizzata. Adesso, non che i gatti a volte si spaventano per le cose più assurde e non si spaventano per cose che invece forse potrebbero essere terrorizzanti. E è molto curiosa però questa pagina, lo sguardo del felino fisso sull'obiettivo del fotografo, scrive Libero, non lascia spazio a incertezze, chiede soccorso perché fra le braccia del presidente venezuelano Nicolas Maduro teme di fare la fine degli oppositori del regime. Un approfondimento sulla verità, invece, sulla questione che abbiamo visto nei giorni scorsi sui giornali tedeschi, ma anche ripresa dai giornali italiani, ed è quell'intreccio tra industria dell'auto e politica in Germania. Alcuni land, come per esempio quello della Bassa Sassonia, hanno proprio delle partecipazioni nei colossi dell'auto. Nel caso della Bassa Sassonia è un 20% di Volkswagen. Governo e auto sono una cosa sola, i politici tedeschi ungono le quattro ruote. A capo dei cinque colossi, che sarebbero d'accordo da 30 anni, famoso accusa di fare un cartello per limitare la concorrenza, si avvicendano uomini di partito ed ex ministri. Su questo la Merkel tace, ma continua ad accusare Trump di protezionismo. Va detto che per esempio la Bassa Sassonia è in mano alla SPD e non alla CDU di Angela Merkel, ma sicuramente è un problema che in Germania continuerà a suscitare discussioni, specie in vista delle elezioni politiche di settembre. Era l'ultima segnalazione per oggi. Un grazie a Carmelo Lauricella in regia. Ancora una buona giornata a tutti da Giulia Crivelli.